Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Oh, giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnaci, dovete seguire et pugnare. Poche foot. C'era un'indagine gigantesca, se non tragica, c'era un'indagine gigantesca dove chi subiva, diciamo, la presunta concussione e quindi veniva spinto ad affibbiare l'appalto a Romeo non denuncia. Quelli che stanno indagando vengono fregati e qualcuno dice che ci sono le microspie. Una roba che avrebbe fatto saltare in aria uno Stato per la gravità. E invece sembra che sia tutto tranquillo, sono tutti al loro posto e nessuno dice una parola. Una roba da fare paura che è avvenuta mentre presidente del Consiglio era Matteo Renzi. Di questo si è oggettivamente responsabile. Alla fine lì doveva arrivare Michele Emiliano, alla fine ci è arrivato dopo un lungo preambolo. Buongiorno signori, alle 6:31 minuti. Mi fa venire un po' l'urticaria. Ma chi? Chi presidente? Qua se devi fare la conduzione 4.0 di 24 mattino, non è che puoi lanciare queste accuse e poi tirare che dietro. Vi possano ammazzare tutti quanti. Che miseria, oggi è aggressivo. Non sono falsi come Giuda. Calma, Vincenzo, quando sei davanti al microfono ci vuole moderazione. E quindi se vuoi condurre qua, portiamo avanti il progetto, ma devi un attimo darti una calmata, eh? Baci a baci. Oh, così va meglio, clima un po' più disteso, eh? Pistole ad acqua. No, ad acqua, presidente, ad acqua, vabbè. Tex Wheeler. Vabbè. Così va bene. L'abbiamo un po' sfumata in corner, come si suol dire. Signori, come va? Oggi vi svegliamo col Police, per darmi un po' di ritmo. E infatti ci scrive da Perugia 8 gradi un ascoltatore, ma scaldano i Police. È giusto. 8 gradi anche a Milano, eh? Mentre 3 gradi a Sirtori, ci fa sapere Giovanni. A Messina 13 gradi, signori, buongiorno. Ciao Nino. Interista come Mauro Meazza e Peter Bescapè. Ma no! Ma Milo, che errore! Ma Bescapè è un fratello rossonero. Nino, come fai? Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Come hai fatto, Nino, questa gaffe clamorosa? Peter Bescapè è andato fino a Istanbul per vedere la finale di Coppa dei Campioni con Liverpool. 9-9, è la data che tengo a memoria. AC Milan uguale vittoria. In Europa si è fatta la storia. Milanisti nel cuore. Sono 11 in campo e milioni là fuori. Rossoneri guerrieri. Anche all'estero sentono i cori. È una realtà partita. Ragazzi, 11 gradi a Sanremo. E con questo clima anche da Reggio Calabria, 11 gradi, voglio salutare intanto il condirettore della Verità, Massimo De Manzoni, che sta a Milano. Buongiorno. Buongiorno. Quanti gradi a Milano? Ah, non lo so. 8, te l'ho già detto io che esco presto. 8 gradi. Va bene, insieme a Massimo De Manzoni vogliamo salutare... Oh, Massimo, qua c'è un'inchiestona da fare, eh? Mi propongo, visto che scrivo per la Verità, mi propongo come una mega inchiestona, eh? Noi la nostra Veronica è single o no? È single o no? Veronica Gentili, dobbiamo scoprire se sia fidanzata oppure no. È un'inchiestona di queste... Lo sveleremo. Da premio Pulitzer. Buongiorno, vedo che cominci ad avvalerti di collaboratori seri e validi per le tue ricerche. Bene, così andiamo bene. Sveleremo tutto. Tutto. Questa è la Verità. Tutto, tu sei proprio un cane da guardia, non ti sfugge niente. Esatto. Poi questa è del Fatto Quotidiano, Massimo, quindi sono di quelli radical chic che si tengono tutto di nascosto, brigano, c'hanno i giudici amici, quindi dobbiamo stare anche un po' attenti. Certo, non troverai mai nessuno che ti dica nulla, lo sai. Esatto. Hanno paura. Signori, però qua dobbiamo aprire il Parlamento, buongiorno a tutti, perché... Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, ogni gente, giorno c'è la sua pena. Romeo, perché sei tu Romeo? Ebbene sì. Rinnega tuo padre. Ecco, vuoi andare avanti? No, per carità, poi lo faccio tutto. No, va bene, esatto. Allora, la situazione... Partiamo subito da questa cosa. Oggi sui giornali, caro Massimo, c'è una disfida tra giornali di destra. Possiamo che un tempo si chiamavano così, giornali di destra. Libero e La Verità, che oggi si danno degli schiaffoni. Beh, intanto Libero non è più un giornale di destra. Vabbè, già prima annotazione polemica. Primo colpo. Giornale renziano. Cioè, praticamente, per riassumere agli ascoltatori, Libero accusa... Romeo, attraverso la fondazione Magna Carta di Quagliariello, ha dato 50.000 euro alla Verità. La Verità oggi accusa in prima pagina l'editore di Libero, cioè Angelucci, tra l'altro tra i più assenti in Parlamento, ha comprato la casa, vuol comprare la casa Verdini. Schiaffoni a destra manca, ma che succede, Massimo? No, è molto semplice. In questa inchiesta c'è un'informativa nella quale ci sono tante cose. Tra cui anche questa cosa qui che abbiamo tirato fuori oggi di Verdini. Questa di Verdini è nota in parte, nel senso che si sapeva che Verdini aveva difficoltà e Angelucci è intervenuto e gli aveva dato dei soldi per dargli una mano. Nell'informativa si dice che di questi soldi sarebbe rientrato grazie a un appalto, sempre nell'ambito Consip, che... in cui aveva magheggiato Verdini. Sono accuse, ovviamente, tutte da vedere. È oggettivamente una notizia, ma è anche una risposta a una carognata che è stata fatta nei giorni scorsi da Libero nei nostri confronti. Di cosa si tratta? C'è questo imprenditore Romeo che attualmente è arrestato ed è sotto accusa. Nelle intercettazioni si dice anche questo, che Bocchino consiglia a Romeo di fare un versamento tramite Magna Carta di Quagliariello alla Verità, che è nel momento in cui sta nascendo. Nel momento in cui sta nascendo la Verità nasce perché Pietro e io veniamo estromessi da Libero per eccesso di antirenzismo, così questa era l'accusa più o meno, e Pietro decide di fondare questo nuovo giornale e gira un po' l'Italia a cercare finanziatori, di cui poi ne troverà solo una parte, tanto è vero che la maggioranza del giornale è ancora in mano sua. Ma arrivano alla fine questi soldi o no? Arrivano da... Questi soldi forse arrivano, anzi Quagliariello dice che poi alla fine arrivano. Ricordiamo che all'epoca Romeo non era indagato, era un imprenditore normalissimo che lavorava, tra l'altro, con le procure e con i tribunali in mezzo Italia, aveva gli appalti per le pulizie neanche nei tribunali, quindi era una persona... un imprenditore come un altro, niente di che. Ma la cosa curiosa di tutto questo attacco è che se c'è un giornale che ha tirato fuori le magagne di Consip e di Romeo, questa è la verità, è assieme al Fatto Quotidiano. Tutti gli altri giornali, Libero per primo, su questa vicenda si sono trattenuti. Però diciamo, ragazzi, Romeo e i giornali, anche voi al Fatto avete avuto la vostra bega, no? Romeo, perché sei tu Romeo, Veronica? No, l'accusa di aver fatto un'intervista morbida da parte di Travaglio. Cioè, ragazzi, ma che strana inchiesta. Vabbè, nel senso, queste sono cose diverse. Io su questa cosa penso un'unica faccenda, che queste fondazioni comunque sono uno strumento un po' pericoloso, nel senso, a prescindere dal contestuale, credo che poi alla fine siano diventate molto spesso un modo, qui chiaramente è una questione diversa, a che fare con un giornale e a che fare molto spesso con la volontà di faccendieri vari di accreditarsi e di ingraziarsi le simpatie di politici, talvolta anche pensando di utilizzare in maniera strumentale e poi neanche riuscendo ad utilizzarli, quindi non è assolutamente automatico che poi si riesca. Però si cerca sempre di fare questi finanziamenti a destra e a manca. Con le fondazioni. Le fondazioni. Ma infatti tu dici pericolosa, a me è venuta una gran voglia di fare fondazioni. Cioè ci girano, dei soldi pazzeschi. Dei soldi pazzeschi. Io dico è pericolosa finché non facciamo una fondazione, io e la sciocchina. Ma se io e te facciamo una fondazione, il pericolo potrebbe assumere altre prospettive. Quindi se mi parli di una sciocchina foundation, per me va bene. Però io vorrei capire una cosa. Allora, il sospetto, se ne parlava ieri anche con Alessandro Sallusti, direttore del giornale, adesso uscendo da questioni, come dire, anche personali, di finanziamento ai giornali, di questa inchiesta al momento, con tutto Massimo che voi, come dire, colpite, duro, eccetera, però non si vede grande ciccia, cioè grandi movimenti di soldi. Oggi i giornali cominciano a dire che ci sono delle movimentazioni estero su estero da controllare. Però mi sembra, come dire, che tanti brigavano, che tanti dicevano di avere grandi agganci, al momento non si vede delle grandi... Piano. Allora, intanto c'è questo appunto che... Cioè, intanto c'è una persona che confessa di aver preso 100.000 euro. Sì. Per... C'è questo appunto in cui si parla di 30.000 euro al mese, che non è che sia proprio pochissimo, so che tu guadagni molto di più, ma insomma, sono bruscolini, io se vuoi te li presti. Ma così in generale non è che siano proprio un niente, anche perché figurano come stipendio. Ma infatti Massimo pare che l'unico che non ha voluto ricevere Romeo sia stato proprio Milan. Straccioni, ho detto straccioni. Che mi interessa a me di parlare con questo. 30.000 euro, ma siete degli straccioni. Tu solo gli sceicchi frequenti, no? No, però il pizzino, sì, soldi a T. Sì, questi sono gli atti che poi, secondo gli inquirenti, per Tiziano, è tutto da verificare. Ma non dimenticare una cosa, che c'è stata una fuga di notizie clamorosa e che quindi molte cose non si sono concretizzate per il fatto che gli indagati sono stati avvisati che stava indagando su di loro. Questa è bella, perché tra l'altro le procure sono in rissa adesso. Perché, E si è fermato tutto, per cui dal punto di vista processuale è probabile, è possibile che poi non si arrivi a nulla, perché lo scambio di denaro materialmente non c'è stato. Per cui io penso che dal punto di vista processuale alcune posizioni andranno assolutamente a finire in nulla. Ma qui stiamo parlando di un'inchiesta politica che investe a un livello della politica clamoroso. Parlando dei vertici della Consip, del capo dei carabinieri, stiamo parlando del ministro dello sport. No, ma infatti la questione è questa, cara Veronica, i riscontri politici ci sono. Infatti pare che Renzi abbia cambiato idea, almeno racconta i giornali, e dice ora si punti al 2018, cioè il governo può andare avanti, cioè adesso c'è bisogno di un po' di tempo, no? La situazione comunque è molto incresciosa, ma tra l'altro c'è un'anomalia secondo me più delle altre che merita di essere segnalata, quella che sono rimasti tutti al loro posto, non per la polemica delle dimissioni o meno, ma perché è un equilibrio proprio molto molto precario in questo momento, perché se ognuno potesse veramente rivendicare la propria versione, la prima cosa che si sarebbe fatta sarebbe stato chiedere immediatamente che Marroni se ne andasse. l'amministratore delegato della Consip. Sì, qua ci sono dei nomi. Allora, quando si parla di lotti di gara, uno pensa che parla di lotti ministro. Se parliamo di Gasparri, non è quel Gasparri là. Ma adesso c'è Marroni con due R, non è Marroni. Là sappiamo che c'è chi ha tentato di accusarlo solo per il cognome, credendo fosse parente. Quindi specifichiamo. Sì, no, è un casino. Guarda, si parla di lotti di gara che non sono lotti ministro, anche se c'entra anche lotti ministro. Tutto chiaro. Detto questo, poi i soldi sono emersi relativamente, addirittura ieri la difesa su quello, su Romeo che tu non ricevi perché appunto poca roba, si appoggiava sul fatto che è abbastanza assurdo che un Gasparri abbia ricevuto soltanto 100.000 euro in 3 anni quando si parla di un appalto invece molto ricco, no? Sì. Di 2,7 milioni. Ma giustamente poi, come dice Manzoni, si vedrà in tribunale, certo, molti sono stati avvisati, politico. È l'aspetto politico questo. Cioè, l'aspetto politico è di una gravità estrema, soprattutto per Renzi, che a differenza di quello che ha detto Grillo nel blog, secondo me prendendo una cantonata, ha tutt'altro che rottamato il padre. Sì. Renzi sa benissimo che mentre ministri come la Guidi, come Lupi erano scaricabili e non avevano nessun nesso reale con lui, questo è proprio il suo ambiente di appartenenza, queste sono le persone a lui più legate, quindi non è possibile, cioè neanche volendolo, sono persone che in qualche modo hanno un profilo umano, personale, politico che è completamente avvinto al suo, quindi non c'è possibilità. Sì, allora qua ci sono grandi elogi a Veronica, non so perché, hai mandato già il selfie? Sarà a causa del mio sopraffino intelletto, mi dispiace. Tra l'altro c'è un laziale che scrive: grande Veronica, peccato che è giallorossa, si usa un termine un po' dispregiativo. Ma chi ha mai detto una cosa del genere? Infatti, a parte che è assessuata Veronica Gentili, per quel che riguarda il calcio. Bisogna indagare anche su questo. Su questo abbiamo indagato. È veramente sa di calcio come io so di sanscrito antico. Cioè, per esempio, quando prima ho detto che Peter Bescapè è andato a Istanbul a vedere la finale di Coppa dei Campioni, a che cosa mi riferivo, cara Veronica? Non lo so, io ho subito avuto tanta paura per lui che è andato lì in questo momento, Erdogan, ero preoccupata. Ma che in questo momento? anni fa a Istanbul, la finale Milan-Liverpool, mamma mia. Ma capisci, Massimo, il caso è disperato sul calcio. Ecco, qui possiamo dire che tra i vari deterrenti per non avere a che fare con me non c'è quello che sono giallorossa, esatto. Cioè, poi tra l'altro ha un papà laziale, se non sbaglio, quindi semmai, però ecco, se la portate a cena non parlate di calcio, questo no. È dato, no, il calcio, oppure no, il calcio. Se volete che vi guardi finalmente zitta con l'occhio così perso, parlate di calcio, è l'argomento, parlate di calcio, va bene, noi andiamo al traffico adesso e vai col traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Oh Maria, e sono Anacleto. Che sai cosa sei? Un protopipatore. Veronica Gentili, single o fidanzata? Ma chi cazzo è Veronica Gentili? Un appello alla bellissima, intelligentissima e simpaticissima Veronica. Se devi ancora fidanzarti, non scegliere il solito imprenditore facoltoso, attore, calciatore. Scegli un bello operaio metalmeccanico, tipo me. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Perché io devo mettere la testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Pure che mi faccia vivere nel modo giusto. Il partito che governa questo paese ormai o passa il tempo a difendersi dalle inchieste, il PD, oppure passa il tempo ad affrontare il tema delle tessere false, oppure a litigare tra di loro con le primarie. Quello che io sto vedendo in questo momento è un governo e una maggioranza che vuole arrivare al vitalizio di settembre, alla pensione di settembre. Senta. E noi gliela vogliamo far saltare. Vabbè, Veronica, non commentiamo i nostri ascoltatori. No, calciatore, ben detto tanto di no. Questo volevo rassicurare. Forse il attori, guardate che attori. Attori abbiamo già dato. Abbi pazienza. In una vita precedente, è fidanzata con un attore per 6 anni. Dai. Ah, E si può dire chi? No, non lo conosci. No. Io lo sai come sono, non vado a prendere questi illustri e non questi hollywoodiani, non questi. Io sono così, sono terra terra. No, io volevo fare questa annotazione su Luigi Di Maio. Ma l'avete visto, Massimo De Manzoni, ma l'hai visto Luigi Di Maio? Sembrava, parlava da uno studio con la bandiera, sembrava già il presidente del Consiglio in pectore, no? Era lì tutto giacca e cravatta. Poi si è fatta questa uscita su Twitter, Gentiloni è come dare una camomilla ai malati terminali. Di Maio, lasciali stare, nei malati terminali. Sono cose sgradevoli da citare, sgradevoli. Non voglio buttarla in politica, sgradevoli. Le parole sono importanti. No. Sì, non è la prima gaffa. Non è la prima gaffa. Dovrebbe registrarsi un po' Di Maio. Però l'hai visto tutto così impettito, era proprio perfettino. C'è un po' di contraddizione tra come lui cerca di porsi esteticamente, poi, lo studio e quelle cose che gli escono. Le cose che gli escono su Twitter. Come se non controllasse, no? Ci fosse un avatar. Però che dici, Massimo? Può essere davvero il momento del 5 Stelle, viste anche tutte le beghe, insomma? È un bel po' di tempo che il momento del 5 Stelle... ma proprio andare al governo, cioè puntare al governo. Andare al governo no, perché adesso in questo momento c'è una legge elettorale che... impedisce a chiunque di governare da solo, e 5 Stelle sono per definizione non coalizzabili, a meno che non si avverino alcuni retroscena che vengono fatti, ma ai quali io credo abbastanza poco, di alleanze tra loro e il centrodestra, sistemi, sì. Non più che il centrodestra, una parte del centrodestra, che anche il centrodestra è ormai un'astrazione, detta così. Si parla di Movimento 5 Stelle e Lega, che possono in qualche modo... Lega e Fratelli d'Italia, sono movimenti antisistema, sovranisti, chiamateli come volete, ecco, insomma, che ci sono anche in altri posti, in altri paesi, che in questo momento vincerebbero le elezioni. Per esempio la base comune. Veronica Gentili si troverebbe benissimo in un governo Lega 5 Stelle, non so, emigra, cioè, perché per le 5 Stelle sono suoi amici, la Lega ancora, no, cioè, non so, emigri in Congo, cosa fai? Ancora con questa storia, no, io resto sempre, resto e combatto, tu lo sai, no? Quindi fino alla fine. Detto questo, io alla versione del governo Lega 5 Stelle così non ci credo. Quello che posso credere, però non vorrei dover spiegare a te questi sofismi politici che poi di mattina mi va in panne, è che eventualmente i 5 Stelle possano vincere e Salvini, la Melonia possano decidere in qualche modo di prestarsi a farli governare, che è un'altra cosa, cioè di dire noi non ci opponiamo, siamo qui e siamo disposti a votare singolarmente dei provvedimenti per mostrarsi in qualche modo avversi ad un ipotetico fronte delle larghe intese, ripetuto, che sarebbe quello PD, Forza Italia, qualora i 5 Stelle non riuscissero a formare il governo. Vabbè, questa diciamo è fantapolitica, poi vedremo. Intanto io vi devo segnalare... era quello che Bersani chiedeva di fare ai grillini qualche anno fa. È finito con il birrino. Ti ricordi che è finito col birrino solitario? Non farmi piangere. Fare piangere, comunistona. Questi sono ricordi, non fatevi piangere. Sono cose così. Ti è scesa la lacrimuccia quando hai visto il birrino di Bersani? Per favore, guarda. Sarei voluto andare subito a raggiungerlo, capito? A fidanzarsi con Bersani, così. Sì, ecco, alle feste dell'unità, così a servire le patatine. Sì, esatto, poverino. Allora, oggi vi segnalo questa. Repubblica fa un'inchiesta, pagina 2-3, straordinaria questa, su come si usano i soldi da parte degli europarlamentari. Ma ce ne sono di bellissime. Lara Comi, che ha assunto la mamma come assistente. La mamma, questa la sapevate. Oppure c'è Nencini, che sta al governo, che dovrebbe restituire 455.000 euro di viaggi contestati dall'Unione Europea. Ma è finito tutto in prescrizione, si è salvato così. E poi ci sono altri casi di italiani, e ci sono anche due grillini. Una ha chiesto rimborsi per delle ricerche sul turismo, pare che le abbia copiate tutte su Wikipedia. Questa non è male, De Manzoni. Su Wikipedia ha copiato tutto e ha presentato. Questa. Una fatica improba. Questa è l'accusa. È bello, perché noi ci scandalizziamo del Parlamento italiano, ma i veri soldi si fanno all'Europarlamento, Massimo. Questa è la verità. Sì, ho letto velocemente data l'ora a cui ci convochi, ma insomma... Bravo, polemica. Se poi però, non possiamo però, essere ho preparati. Ho visto una cosa, che mi pare di aver visto una cosa, che, come al solito, gli italiani siamo anarchici individualisti, ognuno